Allora, verso la vetta, perché sai, la resistenza siamo noi alle intemperie della vita. Dicono così i Placcaggio Hardcore. Ora appunto siamo in diretta con un componente dei Placcaggio Hardcore e ci facciamo una chiacchierata per la presentazione del loro nuovo disco. Pronto, ciao, ci senti? Ciao ragazzi, sì, ci sono. Ciao, Sono grazie, Cristi del scusa per Placcaggio, il sono il ritardo. bassista. Benvenuto a Cronache di Regime. Allora, niente, noi quando intervistiamo i gruppi ci piace sempre un po' farci raccontare la storia, da dove nasce il gruppo, la loro discografia. Quindi, se vuoi dirci intanto due parole sui Placcaggio, come nascono, eccetera. E anche il cambio di sonorità, perché prima nascono come Placcaggio Hardcore e ora vi rinominate solo Placcaggio. Allora, siamo nati, tra virgolette abbiamo cominciato a suonare come Placcaggio in questo periodo del 2004, era la primavera del 2004, marzo-aprile. Abbiamo iniziato come trio, c'ero io come bassista Chris, Gabriele chitarra e voce, che ancora ci siamo adesso, e Alessandro Ceci alla batteria. Tra virgolette eravamo già tutti quanti amici, quindi la solita storia di quasi tutti i gruppi, eravamo già tutti amici, ci conoscevamo già. E già avevamo suonato insieme con altri gruppi, ad esempio sia Gabriele che Alessandro che Ceci, batterista, suonavano con i Lost Olympus, un gruppo punk rock di Colleferro. Comunque siamo tutti originali, cioè originali di Colleferro, che è un paese alle porte di Roma, circa mezz'ora da Roma, 22-23 mila abitanti. Abbiamo deciso di fare questo gruppo inizialmente come Placcaggio HC, che tra virgolette ci siamo. Vabbè, l'ispirazione è ovviamente già dal nome si capisce per il rugby, perché la nostra cittadina ha una bella tradizione, una buona tradizione per il rugby. In più E con noi seguivamo sfondi il una porta rugby. aperta perché Sì, sabato abbiamo lo so, organizzato la giornata di sport popolare come gruppo di rugby dal basso qua a Milano. Abbiamo fatto una bella partita di rugby su un campo che abbiamo occupato. Vabbè. sì, anche noi, tra virgolette, ogni tanto andavamo a giocare proprio a livello amatoriale, in mezzo proprio ai campi delle campagne dove c'erano tutti tra virgolette le cacate di vacca, facevamo noi i campi da rugby, giocavamo un po' proprio a livello amatoriale per divertirci. Gabriele, ad esempio, il cantante, che è quello che la porta un po' più di più la passione, ancora va a vedere le partite. C'è stata anche domenica, questa qui la partita è domenica scorsa, abbiamo il campo da rugby a Colleferro. E poi abbiamo tolto le due C, abbiamo messo la doppia K, più che altro per tributare a modo nostro il chitarrista fondatore dei Judas Priest, Kiki Dowing, quindi l'abbiamo fatto in quella maniera. Poi l'hardcore era un po' un gioco di parola, perché in romano hardcore oppure hardcore, nel senso, era anche un po' il gioco di parola, perché il placcaggio al collo, come saprai, è quello un po', è quello proibito, tra Sì, virgolette. Quello un po' cattivo, che quello nel da rugby non si può rosso. fare. Sì. Sì, diciamo che non si potrebbe fare nel rugby, quindi era pure una questione un po' per il nome, che doveva rappresentare anche la musica, un impatto violento. Quindi l'abbiamo scelto anche per quello lì. E in più, paradossalmente, non è che abbiamo passioni per il calcio, come la maggior parte del giro di molte persone che. O skinhead, o punk, anche molti del giro al coro, noi non seguiamo tra virgolette il calcio, e quindi l'abbiamo scelto anche per quello lì. Abbiamo iniziato come trio e siamo rimasti a suonare in tre per parecchio tempo, circa quasi una decina d'anni. Ad ottobre dello stesso anno, quindi dopo 5-6 mesi che provavamo insieme, abbiamo registrato il primo demo CDR con un paio di giorni, che si chiamava Liar. Abbiamo fatto la copertina, abbiamo preso un classico placcaggio, una foto, non so, da internet, e con Paint ci abbiamo fatto la copertina. Quindi era un classico CDR. E quello è l'unico demo dove ci suona anche il nostro amico, che si chiama Uras, la seconda chitarra, che ha suonato con noi per un annetto circa, fino al 2005. Calcolate che comunque tutto quello che gira intorno ai placcaggio sono tutti quanti amici. Chiunque ci ha suonato, chiunque ci suoni anche adesso siamo un bel po'. E chiunque ci ha fatto parte dei placcaggi in generale, tutti quanti amici siamo. Cioè, quindi questo è anche un punto fondamentale a cui ci teniamo, che siamo tuttora amici, usciamo insieme, andiamo dalle parti insieme e via dicendo. Poi nel 2006 abbiamo incominciato a cantare in inglese, dove ho iniziato pure io, tra virgolette, a scrivere un po' di testi. anche se poi la maggior parte della roba la faceva tutto quanto Gabriele, quindi che è il cantante, ci confrontavamo. Poi nel 2007 è uscito il nostro disco, cioè ufficiale, nel senso un full length, dove abbiamo cominciato a cantare in italiano. Abbiamo tradotto alcuni testi che avevamo fatto in inglese, li abbiamo fatti da lì in poi, abbiamo cominciato a cantare quasi prettamente in italiano fino proprio all'ultimo disco, che è totalmente tutto quanto in italiano, anche quello prima Ziggurat. Nel 2009 Fronte del Sacco, un altro CD e vinile. 2012 Approdo. 2015 Ziggurat, poi abbiamo fatto 2 7 pollici, uno split con gli ultimi, dove ci siamo coverizzati a testa 2 canzoni. Abbiamo fatto un po' il gioco, hanno fatto i NoFX di Rancid per scherzare. Gli ultimi sono un gruppo di nostri amici, ci suoniamo ancora tra virgolette insieme, parecchi concerti li stiamo facendo ancora adesso insieme. Suonate pure a Poi Padova abbiamo insieme, no? sì, Ci faremo vedremo a Magenta l'8 Padova, ci aprile. vedremo a Magenta Padova. l'8 aprile, il venerdì, e il giorno dopo andiamo a Magenta insieme, scusate, a Magenta l'8, che è vicino Milano, Sì. e il Ci giorno dopo, il sabato, faremo vediamo anche pure Padova. là a Magenta, mi sa, facciamo Sì, doppietta. facciamo questa cosa qui, e poi abbiamo tolto l'HC per un motivo banale, ma era solo una cosa nostra. Sembra sul 2013-2014, il nostro batterista originale, perché noi abbiamo continuato a suonare in tre, e dovette lasciare tra virgolette il gruppo perché si trasferì in Sardegna, e quindi abbiamo deciso di togliere un pezzo tra virgolette del nome, e per quello il motivo, cioè una cazzata, nel senso è più che altro una cosa nostra. Ed entrò Valerio, che era l'attuale ancora batterista, con cui abbiamo registrato Dion 7 pollici dedicata alla cantina del Goio, che è un posto che purtroppo non esiste più, di Viterbo, e Ziggurat, e l'album nuovo. E Valerio, il ragazzo, suona tuttora la batteria, ci ha sempre aiutato a fare le parti della batteria sin dagli inizi, e ci abbiamo ugualmente suonato insieme anche noi. Ma Quindi, tra virgolette, è come se era il quarto, diciamo, il quarto placcaggio. voi E poi adesso. avete anche un progetto collaterale, no? Che sono i 666. Sì, quello lì l'abbiamo fatto. Allora, adesso non suoniamo più da circa 3 anni, non ci siamo sciolti, nel senso, però non suoniamo più da circa 3 anni, anche se hanno ristampato ultimamente. Roberto Del Nation ha fatto tipo la sesta stampa del CD, perché sembra che la gente lo richiede, quindi ancora noi non suoniamo più da Sì, circa, mi sa, 3 anni. alla fine tutti i punk sentono gli 883, in realtà, Sì, è quella la noi deriva. anche. Tra ragazzini non neghiamo, cioè anche li abbiamo ascoltati, anche perché io ho 44 anni, l'epoca era quella, la soglia è sui 38, la Gli media anni d'oro del del Grande Real, dai. Danotto. Sì, poi tra virgolette là nei 666 è stato un gioco, calcola che eravamo io e Gabriele, quindi che suoniamo ancora, Alessandro che tornò dalla Sardegna, quindi erano i placcaggi originali, e c'è il chitarrista attuale dei placcaggi, cioè erano tra virgolette i placcaggi più un'altra chitarra. Che abbiamo fatto? L'ingiorno abbiamo fatto a un Queste Roma, che è un concerto che fanno Roma ogni anno, di 6-7 anni fa, non mi ricordo. Invece di fare le solite cover metal che noi solitamente proponiamo, abbiamo deciso, detto, ma facciamo sta cazzata, e facciamo, ma manco mi ricordo che canzone abbiamo fatto, gli 883. Abbiamo proposto una canzone per gli 883, vediamo come reagisce la gente. E c'avevamo pure una maglietta di 883, ci avevamo regalato e l'abbiamo indossata. La gente è impazzita. E poi abbiamo detto, vabbè, famo sta cazzata. Tipo, dopo un po' abbiamo preso il logo con Paint, cioè abbiamo scritto 666 sempre con Paint, e abbiamo fatto sto cazzo di logo nella pagina dei 666. E con 10 mesi abbiamo registrato il disco e abbiamo suonato un po'. E abbiamo fatto anche in 7 pollici. Ma è andato per scherzo, davvero, proprio cambiando un po' di testi e facendo tra virgolette le cover un po' più punk e metal. Ma tra l'altro non siamo stati i primi, c'erano già i Dr. Max, facevano un sacco di gente le cover degli 883 in altre versioni. Sì, quello No, era, sì, un nostro, tra virgolette, chiamiamolo progetto parallelo. sì, no, grandi che siete fedeli a Paint e non fedeli a Photoshop, proprio la vecchia No, scuola. ormai l'hanno fatto con Photoshop. Noi all'inizio facciamo con Paint, però ogni volta per fare le grafiche È un casino. era quasi impossibile farle. Tutte le grafiche che ci fanno adesso le fanno ovviamente con Photoshop, cioè non le facciamo noi ovviamente. Ok, poi arriviamo a Non è oggi, impossibile. insomma, che il 25 esce questo CD nuovo verso la vetta e quindi ti volevamo chiedere un po' come nasce l'idea di questo CD e le sonorità che, vabbè, già ci hai accennato, però se sono un po' cambiate rispetto a prima, di sicuro con Ziggurat rispetto all'inizio le sonorità dei Black Culture Sì. sono molto cambiate. Allora, diciamo che abbiamo seguito, da quando abbiamo cominciato a suonare, uno dei nostri obiettivi, cioè chiamiamoli obiettivi principali, era quello di non farci troppe barriere musicali, perché noi ascoltiamo non solo il punk hardcore, ma tantissima musica metal. Adesso stavo ascoltando i Dark Funeral prima che mi chiamassi. Ho comprato i Queen's Reich, cioè, in edicola prima di tornare a casa. E quindi noi siamo cresciuti prettamente con il metal. Il punk, paradossalmente, l'abbiamo conosciuto dopo verso i 16, penso, 17 anni. Ma grazie ai gruppi metal, specialmente io, i gruppi punk li ho conosciuti grazie agli Slayer, ai Metallica che facevano le cover, Motörhead e cose del genere. E quindi volevamo sempre, era di mischiare man mano tutte le nostre influenze senza farci troppi problemi. Quindi già dal Nemico, che aveva una vena un po' più punk hardcore, più grezza, e aveva pochi, tra virgolette, riferimenti magari metal, già dopo, come hai detto tu, già verso il 2015 o Ziggurat, abbiamo cominciato, tra virgolette, a lasciarci più andare su sonorità più metal, fino arrivando adesso a Verso la Vetta, che uscirà il 25 marzo. Come avete sentito il singolo, se l'avete sentito, sembrano gli Helloween, perché c'è una citazione degli Helloween di mezzo, e quindi nel nuovo album ci siamo un po' più sbizzarriti a mettere mo molte citazioni proprio metal, prettamente metal, che stanno quasi in tutte le canzoni. Però è molto variegato, perché, come farei sentire adesso per gli altri singoli, ci sono sì pezzi metal, perché ce ne sono tipo tre che sono molto, hanno la venatura metal, ma è molto variegato. L'intento nostro era proprio distruggere tutte le barriere musicali che c'erano e mettere qualsiasi tipologia di influenza o di gruppi che ci piacevano e fare una cosa senza troppi problemi. Quindi non è, tra virgolette, non è molto omogeneo come disco a livello musicale, è variegato. Però ha sempre il filo comune, comunque ormai sono un bel po', sono 18 anni che suoniamo ed è quello lo stile. Potrebbe essere anche buono perché siamo abbastanza riconoscibili, magari ogni tanto ci dicono questa cosa qui, e anche se non ci sanno troppo catalogare. Ormai per scherzare, per dare un senso alla nostra musica, quando ce lo chiedono, noi diciamo che suoniamo New Wave of Black Metal, Heavy Metaloi. Abbiamo fatto pure una canzone, ci avevamo fatto dedicato spiegando il motivo. Perché sono tutti i generi che si possono ascoltare dentro i nostri dischi. Poi Verso la Vetta, questo qui uscirà la prossima settimana, uscirà il 25 marzo per Time to Kill Records di Enrico Giannone, storico cantante sia degli Undertaker, di Buffalo Creed, di Chaff e di altra, per dire, di altri gruppi, e il National Records di Roberto. Loro saranno le due etichette che stamperanno il disco. Uscirà il CD classico, non digivac, vinile nero, vinile bianco e in digitale, e dovrebbe uscire più avanti anche in versione cassetta. Quindi stavolta abbiamo fatto tutto quanto. Lo presenteremo il 27 marzo a Bologna a Scheggia, che sarà il primo concerto che faremo, un concerto pomeridiano. Sarà nella sede degli Ultra di Scheggia del Bologna all'aperto. Il 27 marzo è un concerto pomeridiano. Diciamo che questo qui, poi, questo a livello musicale, quindi le venature sono molto un po' più metal. Dovrebbe essere, penso, registrato addirittura meglio di Ziggurat, perché a un certo punto abbiamo cercato sempre di registrare meglio, specialmente per far capire le citazioni, gli assoli, queste cose qua, perché non pensiamo che un disco per essere punk essenzialmente deve suonare per forza male, perché al giorno d'oggi ci sono tante possibilità tra virgolette, per poter registrare un disco decente, anche con pochi prezzi, più nel senso poi i soldi li mettiamo noi, quindi è anche una soddisfazione nostra. Quindi le registrazioni le paghiamo e ci piace avere, tra virgolette, un prodotto, in questo caso, che si senta bene. Penso l'hai sentito, mandandoti il disco, penso l'avrai notato anche tu, che comunque a livello di sonorità penso che sia un lavoro buono, almeno di suoni. Sì, di sicuro. Io so, allora, io ti dico la verità, io sono molto attaccato invece a quello che dici, al contrario di quello che dici tu, tipo al punk, quello vecchio, registrato male, me l'ero pure risentito quando avete levato l'HC, sono sincero, però... No, ma l'HC era No, per una stupidaggine, era sì, solo una no, cosa no, ma, nostra. no, ma va, sto scherzando. No, con Ziggurat per un po' ho detto, mo, basta, il placcaggio, non me li vado più a vedere, troppo metallari. Che sono un po' attaccato alla scuola punk, però no, a parte scherzi, comunque si sente che è registrata abbastanza bene. Poi dopo con Giorni Lontani e con l'altro pezzo lo potranno Sì, ascoltare anche sì. gli altri che sono in ascolto, insomma. Ah sì, ma abbiamo cercato di fare proprio un mix, perché poi tu, vabbè, il disco ce l'hai, l'ho dato, c'è pure Birra e Lattina, che è molto stile Judas Priest, ma è molto punk, pure il testo. Abbiamo fatto il miscuglio, ma anch'io calcolo che il mio gruppo preferito in assoluto sono i Misfits. Impazzisco per i Negazioni, i Ropava, noi tutto avevamo pure il gruppo d'Edis, facciamo le cover con altri due membri di Colonna Infame, di tutte le cover anni 80 italiane. Quindi pure noi siamo attaccatissimi al punk, quello, a me piace proprio quello inglese tipo gli Exploited, GBA, G-Varugers, Subhumans, tutta roba lì, cioè quello tra virgolette grezzo registrato, vabbè, erano anni 80, ovviamente erano così. Sì, ma ha registrato male forte. Sì, anche il periodo, ma proprio, vabbè, era un contesto diverso, cioè ancora l'ascolto, ma vabbè, ora ascoltiamo una caterva di black metal norvegese dove sono registrati in cantina. Quindi non è per quello lì. Poi, che ti volevo dire? A livello di copertina abbiamo cercato di fare. Allora, i testi adesso mi hai scritto quanti Gabriele, che è il cantante, il chitarrista, come fa tutta quanta la maggior parte, diciamo tutto il 90% penso della musica, e poi ci mettiamo tutti quanti le mani sopra ognuno per il proprio strumento, ma almeno proprio tutta quanta la base quasi finita e la fa Gabriele, quindi che ha un gruppo, si chiama Aeropangea, un gruppo di alpinismo. Ovviamente parliamo di un gruppo nel senso di appassionati, quindi anche a noi piace andare, tra virgolette, fare le escursioni anche se in maniera semplice. Però diventata una sua grande passione insieme al rugby, quindi ha voluto fare questo, tra virgolette, omaggio all'alpinismo. Poi c'è pure il discorso che tutta la parte delle montagne, la natura, la neve, il ghiaccio, quello che sia, sono stati sempre temi affrontati nel black metal, di cui noi siamo grandi appassionati dagli anni 90. E quindi è stato fatto per quello. Poi anche la copertina, che penso hai La visto, c'è cioè, copertina il. spacca. Tra virgolette, chi ha fatto la copertina sono varie persone. Uno è il nostro amico e ci ha fatto tutte quante le copertine, si chiama Riccardo Parenti. Ormai abita in Giappone da tantissimi anni, abita a Tokyo. E lui pure è grandissimo appassionato di vette, tra virgolette, pure di ghiacciai e cose del genere. Gli hanno detto tra virgolette, prendi il K2, cerca di riportarlo il più possibile con quei colori, nel senso celeste e bianco, che rappresentano anche un po' il freddo e il gelo. Mettici un paio di, cioè, vedi le piccozze. E cerca di fare una cosa che si capisca bene. Poi a livello metaforico si potrebbe anche interpretare come, cioè verso la vetta, comunque ognuno di noi penso nella vita abbia un obiettivo oppure abbia raggiunto un obiettivo, e la vetta può essere vista come a livello proprio metaforico, come un obiettivo da raggiungere. Come tutte quelle cose ci vuole la passione, la dedizione, lo sforzo, e non è detto che si raggiunga, tra virgolette, la vetta desiderata. In più, per raggiungere solitamente una vetta, quelle alte, bisogna iniziare dal basso, con tanta umiltà. Quindi c'è pure, si potrebbe anche interpretare, c'è pure la parte un po' più metaforica. E questo qui. E qui abbiamo registrato che siamo ormai a suonare, siamo diventati. Aspetta, cioè abbiamo due bassi, due chitarre, siamo in 5, 5/6 ogni tanto. Mai suoniamo tutti quanti, che fa parte del nostro, noi lo chiamiamo collettivo placcaggio, perché ormai siamo tutti quanti amici. Chi può suonare tra di noi suona tranquillamente, perché io ormai sono più di 4 anni che abito a Milano, adesso mi sto chiamando da Milano e gli Perfetto, altri noi stiamo stanno a tutti quanti a Milano con la Roma. radio, quindi... Appunto, l'avevo detto, e io sono circa 4 anni e mezzo, sono qui con la mia compagna e da 7 mesi ho anche un bimbo, quindi ho un po' più difficoltà, tra virgolette, a star dietro tra virgolette, ai live. Quindi quando suoniamo, suoniamo tranquillamente, abbiamo due bassi essenzialmente, due chitarre, quindi chi riesce, o suoniamo in tre, o in quattro, o in cinque, suoniamo e basta, senza alcun problema. Per esempio Magenta e Padova saremo in cinque, Bologna andranno in tre. Ok. Quindi ecco, il senso è quello. Tutti quanti ovviamente amici e tutti quanti che hanno suonato insieme. Tra virgolette sono mischiati 6-6-6 con il placcaggio e suoniamo tutti quanti. Dai, da Poi non so che paura. No, dirti. Se ti serve qualcos'altro te lo dico. no, no, mo ti faccio la domanda che facciamo più o meno a tutti i gruppi da quando abbiamo iniziato il programma, che è quello legato, diciamo, alla pandemia e al Covid. Quanto, insomma, questa pandemia e questo Covid vi ha influenzato in 2 anni e quanto magari anche appunto questo stop forzato di date può aver fatto sì che poi alla fine, non lo so, è uscito il CD nuovo ora, quindi vi chiediamo se questo stop forzato ha dato una mano, tra virgolette, alla realizzazione del CD e niente, se mai appunto state ripartendo con le date, però insomma le prime date che state facendo me le hai già dette, quindi volevo capire solo un po' questa roba qui, di quanto questo periodo qui che ha stravolto le vite di tutte e di tutti, vi ha stravolto la vita anche a voi come gruppo musicale. Allora, come gruppo relativamente, tra virgolette, perché calcola che il CD è stato rimandato un paio d'anni. Noi l'abbiamo registrato, che era giugno-luglio del 2020, quindi era già pronto da un po', ma ovviamente l'abbiamo sempre rimandato perché ovviamente tutte le date sono saltate, pure quelle che avevamo a gennaio sono saltate, le stiamo riprendendo adesso, le abbiamo fatte poche, le stiamo riprendendo dal 27 marzo. Quindi è stato anche deciso di posticipare il CD. Il disco, tra virgolette, era già stato scritto come scrittura, cioè tutte quante le. Era quasi pronto, quindi non è che ci ha ritardato più di tanto. Ha ritardato quei 2 anni dell'uscita perché la situazione Covid, come sanno tutti quanti, ha bloccato un po' tutto. Però almeno a livello di gruppo, lasciando stare la questione date. A livello di per l'uscita del disco, cioè per la composizione del disco, la scrittura delle canzoni è stata abbastanza relativa perché la maggior parte della roba era già stata fatta, quindi non l'abbiamo, tra virgolette, composto proprio nel periodo Covid. Però ovviamente anche in non, già la cosa molto complicata era il vedersi. Perché per me era già più difficile, già nel senso vedere gli altri scendere a Colleferro, comunque vederli. Ecco, ovviamente col periodo Covid non ci siamo visti per un bel po' dal vivo, ovviamente, proprio nel senso fisicamente dal vivo. Sì, Poi sì, sì. vabbè, è tutto relativo perché comunque quello cioè almeno che penso io è che è la cosa minima, nel senso stiamo parlando di un gruppo, noi abbiamo tutti quanti i nostri lavori, fortunatamente. E quindi del gruppo essenzialmente si può dire anche sti cazzi, cioè è la cosa proprio minima minima a livello di problematica. Abbiamo ricominciato a suonare e recuperare le date perché ovviamente molte sono saltate e alcune sono state rimandate a tempo indeterminato. Cominceremo adesso a suonare un po' più in maniera tra virgolette in maniera programmata, lo faremo dal 27 marzo, detto Bologna. Il 2 aprile suoneremo allo SCAM di Pescara, si trova al centro storico di Pescara. L'8 l'ho detto a Magenta, all'Ixo Pub. Il 9 a Padova al Grand House. E poi faremo il 23, l'8 e il 9 le faremo insieme agli ultimi. Faremo Taranto il 24 aprile, sempre con gli ultimi. Che era un concerto che è saltato a gennaio, quello mi pare, vero? Sì, ne saltò Varese, ne saltarono tre a gennaio, Saltò tre il o 5 quattro. gennaio perché io ero giù e mi Eh volevo sì, affacciare, mi esatto, saltò il ricordo. 5 gennaio, c'era anche Varese che saltò, uno di Roma, ne saltarono tre o quattro a gennaio, perché pensavamo che si potesse, tra virgolette, riprendere tra virgolette, a suonare, invece ne saltarono un po'. E poi ce ne sono alcuni altri che li stiamo chiudendo, nel senso sono quasi sicuri. Mi sembra il 5 giugno ci sarà Viareggio con Meridiano, il 29 luglio sicuramente al Distruggi la Bassa, con l'Asse Criminale, e poi lo sai che altri non me li ricordo, perché poi tra virgolette ci sono fino a Ma settembre. poi va bene, Comunque dai, tanto io. Intanto quelli ci imminenti sono vediamo. adesso, Eh sì, sì. quelli imminenti sono questi qua, fino a fine aprile sono tutti questi qui, di concerti. Poi beh, man mano tanto li comunichiamo per chi fosse interessato, tanto li comunichiamo in continuazione quando escono sia sulla pagina di placcaggio di Facebook o anche su Instagram. Quindi nel senso sono quelle lì per adesso. Perfetto, dai, noi allora ti ringraziamo per la disponibilità e per questa bella chiacchierata. Rilanciamo per chi è in zona Milano il concerto dell'8 a Magenta Magenta. e poi noi dovremmo vederci il 9, io dovrei affacciarmi a Padova a farmi un giro. E niente, quindi ti ringraziamo, mo ci sentiamo giorni lontani e Paleoloxodon Anticus. Ce l'ho fatta a dire sto nome Pronunciato bene. impegnativo proprio, guarda. Me lo sono studiato sto pomeriggio. E niente, e ci sentiamo presto, quindi invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici comunque ad acquistare se volete o in digitale o in vinile o nella forma CD o quello che vi pare, o tutte e tre, verso la vetta dei Placcaggio e noi ci sentiamo questi due pezzi. Ti salutiamo e ti auguriamo Sì, una buona ci serata. vediamo presto allora. Noi ci Grazie vediamo ancora, presto, ma poi se grazie. sei a Milano ci possiamo pure beccare al di fuori Sì, di concerti, volentieri. quando non stai incasinato. Dai, perfetto. Oh, grazie Grazie. ancora, buona serata. Ok, buona serata a te. Paleoloxodon Anticus!